Dunque, questa mattina stavo lavorando sul mio sito e provavo molto piacere in questo lavoro perché mentre scrivevo una voce potevo creare con molta facilità collegamenti con altre voci dello stesso sito. Per esempio, stavo lavorando sul sito degli stili di pensiero e subito è venuto fuori il collegamento col pensiero dicotomico, che è un'altra voce. Con la pagina sulla complessità e così via. Ecco, naturalmente nel mio sito ci sono dei limiti nei collegamenti. Io posso collegare una pagina a un'altra, ma non a un punto specifico di quella pagina. Nel momento in cui sarà possibile fare anche questo, troveremo un modo, per il momento non lo sappiamo fare. Allora il sito avrà raggiunto un livello di comunicazione interna più alta. Faccio un confronto invece con l'altro, col sito Aleph, che è un sito normale, un sito classico, in cui io appunto non ho possibilità d'accesso perché bisogna utilizzare il linguaggio HTML che non conosco. Conseguentemente, se anche leggo delle cose su quel sito Aleph, io so che non posso modificarle. E questo quindi non entra in comunicazione col sito, lui mi dice delle cose ma io non posso interagire. Mentre quello che uso io, se io leggo qualcosa e voglio modificarlo, posso fare in tempo reale. Allora questo mi ha fatto riflettere su che cos'è un sistema vivente e cos'è un sistema non vivente. Ecco, io sento il sito, il quaderno mio, qualcosa che sta iniziando a vivere, mentre di solito l'altro sito non lo sento come vivo, lo sento come qualcosa che è compiuto, fermo lì come una seggiola, come un armadio, ecco, non è vivo, è fatto così e rimane così. Posso vederlo, osservarlo, ma non lo posso cambiare. Posso, naturalmente io vengo cambiato, ma lui rimane com'è. Allora, credo che un sistema vivente si possa definire come un sistema nel quale il livello di comunicazione supera un certo livello di complessità. Raggiunge una certa soglia, supera questa soglia di complessità. Partiamo da come si forma un organismo. Un insieme di cellule a un certo punto riescono a collegarsi insieme, a comunicare tra loro. Vabbè, le cellule già sono vive, ma com'è che fa a vivere questo organismo? Dico questo perché anche una persona, quando è morta la persona, ma non sono mica morte le cellule continuano a vivere per un po'. Allora, cos'è che fa sì che a un certo punto la persona muore, ma non tutte le cellule muoiono, ci mettono un po'. Ecco, è quello che si potrebbe definire la central voice, c'è cioè un'unica voce centrale che le collega tutte, cioè c'è un sistema che le connette tutte quante. E anche qui però a quale livello? Perché se una cellula del fegato parla con un sistema di cellule del sistema nervoso, può farlo a differenti livelli di complessità. Ricordiamoci che il cervello di una cellula non è, come si riteneva una volta, il suo nucleo, ma è la sua superficie dove stanno i recettori. Più recettori, più tipi di recettori diversi sono presenti su una superficie di una cellula, più la cellula è intelligente, cioè capace di rispondere in modo modulato alle influenze dell'ambiente intracellulare e poi esterno. Quindi cosa significa? Che facendo un paragone col mio sito, è che per il momento se le singole pagine del sito sono come cellule, attualmente il mio sito è un po' più vivo del normale, ma è ancora mezzo morto, nel senso che sarà vivo soltanto quando, diciamo così, il passaggio successivo sarà quando ogni punto di una pagina potrà comunicare con un punto specifico di un'altra pagina. Insomma, in altri termini, è come se le pagine avessero un solo recettore. Allora, tutto questo si ricollega alla teoria della complessità di cui abbiamo conversato con Dario Marinella 2 giorni fa. Loro sono esperti, hanno tra l'altro scritto il bellissimo testo, Il mago, il matto e il mago. Sono proprio esperti in questo settore. Ci siamo quindi. Abbiamo avuto una conversazione di 1 ora e mezza e lì, per esempio, ci siamo soffermati sul concetto di emergenza. Ecco, cosa vuol dire fenomeno emergente? vuol dire che il sistema passa a un livello di complessità superiore. Ed è praticamente una svolta, uno switch, che avviene in un attimo, in un secondo. Ecco. Abbiamo discusso a lungo se questo non richiede una preparazione. Io penso proprio di sì, cioè ci vuole un tempo. Io parlavo di massa critica, Dario diceva no, non si tratta di massa critica fa pensare a qualcosa di numerico. No, la cosa che, penso, che ci intendevo io dire io è che soltanto quando, per esempio in un sistema di cellule, ci sono uno sviluppo sufficiente di recettori e nelle cellule, a questi punti queste possono collegarsi, prima no, quindi anche lì probabilmente esiste una massa critica di recettori al di sotto del quale la cellula non può connettersi con altri. Adesso è solo un'ipotesi, non lo so, non sono un biologo, potrei andare a verificare. Ecco, allora la vita quindi è un fenomeno emergente da qualcosa che c'è prima e che non c'era prima e che dopo si manifesta. Ora, questo stesso concetto di evoluzione che passa da stadi, da livelli di complessità, è applicabile ovviamente per ovvie ragioni al pensiero. E qui mi ricollego al discorso di Boris sugli stili di pensiero. Ora, Boris fa un elenco di stili, enumera una serie di stili che lui ha individuato, e poi dice, e poi parla dello stile metaculturale. Lo stile metaculturale non sarebbe uno stile sullo stesso livello degli altri, ma sarebbe un metastile, metaculturale. Gli stili di pensiero, dice Boris, sono espressioni di cultura, quindi potremmo fare l'equivalenza. Stile di pensiero vuol dire dominante all'interno di una certa cultura. Una certa cultura si caratterizza per un certo tipo di stile di pensiero, uno o più, ovviamente. Allora lo stile metaculturale non è un ulteriore stile da aggiungere all'elenco, ma è un metastile rispetto al livello degli stili. E allora per arrivare al livello metaculturale occorre un salto evolutivo. Un salto evolutivo, quindi, in termini di teoria della complessità, è un fenomeno emergente. E applicando quello che dicevo prima ai sistemi viventi, è un fenomeno che non si verifica, si verifica all'improvviso probabilmente, taf, arriva, ma viene preparato da un lungo periodo di gestazione, di incubazione. Una delle caratteristiche di questo stile, di metastile, il pensiero di uno stile metaculturale, è il fatto di abbandonare definitivamente ogni residuo di pensiero dicotomico, perché il pensiero dicotomico è parte del pensiero assoluto ed è proprio incompatibile di per sé con lo stile metaculturale. Attenzione, non significa che allora lo stile metaculturale è incompatibile col pensiero assoluto, è il pensiero assoluto che è incompatibile col sistema metaculturale, nel senso che il metaculturale lo può accogliere al suo interno, lo può modulare culturalmente. Nel momento che però il pensiero assoluto, il pensiero dicotomico, pretendesse di dialogare alla pari col sistema metaculturale, col modello sistema, con lo metastile metaculturale, beh, a questi punti entreremmo in un paradosso, i paradossi che si verificano quando non teniamo conto della gerarchia dei livelli. Così potrei dire che una persona può entrare in conflitto con una figura come Gesù, certamente, ma Gesù non entra in conflitto con una persona. La sé superiore può essere oggetto di conflitto per una subpersonalità. Certo, la subpersonalità se la può prendere con il sé superiore, cioè se la può prendere anche con la grande mente, in termini di Zen. Ma la grande mente non vuol dire che allora è lei in conflitto. Dentro la grande mente i conflitti si sciolgono. Ecco. E quindi lo stile metaculturale assomiglia molto alla grande mente dello Zen o ai livelli alti di spiritualità. Ecco. Quindi è un percorso di emergenti, che insomma, è un salto evolutivo che comporta appunto, in termini psicosinti, un salto a livello di spiritualità, di inconscio superiore. È soltanto lì dove i conflitti cessano di esistere per definizione, perché quel campo, il campo che definisce uno stile metaculturale, o se vuoi il sé superiore, o se vuoi la grande mente, è un campo morfico, eumorfico, di buone forme, dove il conflitto viene, il conflitto inteso come lotta e tentativo di distruggere l'uno l'altro, per definizione non può più esserci.